2024 di Enrico Pagliarini. Ed eccoci anche questa settimana, puntata del 22 novembre 2008. Benvenuti o bentornati a 2024, il primo programma alla radio in Italia dedicato alla tecnologia. Il nostro indirizzo digitale 2024, scritto in cifra, 2024, letradio24.it. Anche questa puntata sarà disponibile dalla prossima settimana in formato MP3. Lo potrete scaricare dal nostro sito internet www.radio24.it. Nelle pagine di 2024 ci sono tutte le informazioni per abbonarsi gratuitamente al servizio podcast, un nuovo modo per ascoltare la radio, sicuramente uno dei modi che verrà utilizzato maggiormente nel futuro per ascoltare i programmi radiofonici. Se non trovate la strada giusta per sottoscrivere, appunto, e fare il vostro abbonamento al nostro servizio podcast, potete scriverci una email, vi daremo tutte le informazioni. Oggi parleremo del progetto One Laptop per Child, un computer portatile per ogni bambino, un progetto lanciato da Nicolas Negroponte che arriva anche in Europa e anche in Italia. Ne parleremo con uno degli ambasciatori di questo progetto per il nostro paese. Poi naturalmente questo è un computer, un piccolo computer pensato per i bambini dei paesi in via di sviluppo e l'Italia, del resto un po' tutti i paesi già sviluppati cercheranno di attivare progetti per portare questo computer che costa meno di $100, per portare questo computer in paesi del terzo mondo, quindi con progetti attivati da qua per l'Africa, l'Asia, eccetera, eccetera, Sud America, insomma altri paesi. Sicuramente la notizia più importante della settimana riguarda Jerry Yang, cofondatore di Yahoo. Yang ha annunciato questa settimana con una email che lascerà la carica di amministratore delegato del gruppo non appena verrà trovato un sostituto. Yang è stato uno dei fondatori di Yahoo nel 1994, non era qualche tempo fa, fino a un anno e mezzo fa, non era amministratore delegato, lo è ridiventato 17 mesi fa e presto lascerà questa carica. Sicuramente Yang paga la forte resistenza ad un accordo di vendita a Microsoft che a febbraio aveva offerto, pensate, 46 miliardi di dollari per acquistare appunto Yahoo. Microsoft è alla ricerca di un modo per diventare competitiva nella rete internet. Microsoft è molto forte nel software, quindi in cose che si installano sul computer lo è molto meno nella rete su internet, dove ci sono insomma grandi player che invece stanno andando molto forte, come ad esempio Google. Per Yang c'è stato recentemente anche un altro smacco, cioè un accordo che era stato fatto durante l'estate con Google per condividere una serie di ricavi pubblicitari è stato bocciato dall'antitrust americano. Vedremo poi come andrà a finire questa vicenda estremamente interessante per il mondo della rete. Vedremo se, come alcuni dicono e alcuni ritengono, Microsoft riuscirà a fare un accordo con Yahoo. Ma qui bisognerà aspettare il nuovo amministratore delegato. A proposito della Microsoft, parliamo anche di sicurezza. La sicurezza dei nostri computer dovrebbe per alcuni diventare un requisito di cui non dovremo più preoccuparci in futuro, una cosa, come dicono i tecnici, trasparente all'utente. Esiste, ma io non me ne accorgo. Nell'attesa che questo avvenga, speriamo appunto tra qualche anno, oggi i pacchetti di sicurezza, i sistemi antivirus, anti-spam, anti-phishing, eccetera, eccetera, insomma, anti tutte le porcherie che girano su internet, potrebbero presto diventare gratuiti. Oggi ci sono già alcune offerte gratuite, ma in futuro potrebbero crescere queste offerte. Non dovremo quindi più preoccuparci di installare e aggiornare questo tipo di software, non dovremo nemmeno preoccuparci del costo. Un passo importante in questa direzione lo farà Microsoft il prossimo anno, quando sospenderà le vendite di Windows Live One Care, un servizio che al momento costa circa $50 all'anno. Il nuovo programma sulla sicurezza che la società ha chiamato Morrow sarà disponibile gratuitamente nella seconda metà del 2009. Questa è la notizia, ma sicuramente avremo modo di riparlarne, visto che da qui alla seconda metà del 2009 ci sono parecchi mesi. È molto soddisfatto il gruppo italiano che sostiene la diffusione di OpenOffice, la versione distribuita nella nostra lingua è stata scaricata 760.000 volte nel primo mese di disponibilità, quindi i dati si riferiscono al periodo che va dal 13 di ottobre al 12 novembre 2008. L'obiettivo di 5 milioni di download nel 2008 dovrebbe quindi essere superato, almeno queste le aspettative del gruppo italiano che sostiene OpenOffice. Maggiori dettagli e il link dove scaricare la suite da ufficio gratuita su www.openoffice.org. Essendo gratuita potete anche scaricarla e provarla. Google, ed è notizia di pochi giorni fa, ha annunciato che chiuderà entro la fine dell'anno Lively, il mondo virtuale tridimensionale lanciato qualche mese fa. Un servizio simile, almeno nel concetto, a Second Life, ma assieme al declino di Second Life anche Google ha deciso di abbandonare questo progetto. L'azienda ha motivato il tutto dicendo che vorrà concentrarsi maggiormente sulle cosiddette attività core, come la ricerca, la pubblicità e le applicazioni. In realtà ci sono altre cose che Google fa. Google sta facendo tante cose oltre alla ricerca, alla pubblicità, eccetera eccetera, ma evidentemente i tecnici hanno capito che questa dei mondi virtuali non era una strada profittevole. Parliamo di videogiochi, tanto è importante e diffuso il mercato dei videogames che il National Geographic sta per avvicinarsi e per lanciarsi nel business con una società che si chiama National Geographic Games. Il primo gioco realizzato, Herod's Lost Tomb, la tomba perduta di Erode, è stato prodotto in casa ed è un gioco gratuito scaricabile per PC, quindi per computer, Mac e iPhone, ma nei prossimi mesi arriveranno anche giochi per le console, prima di tutto per la Wii di Nintendo, la PlayStation 3 di Sony. E adesso parliamo di un progetto europeo per lanciare una grande biblioteca online. Il nome è Europeana, è stata lanciata giovedì, è stata inaugurata, ma in poche ore è stata sommersa dalle richieste di accesso. E allora i tecnici hanno deciso di fermare il tutto. Europeana rimarrà ferma probabilmente fino alla metà di dicembre. Un messaggio sul sito dice che la pagina è temporaneamente inaccessibile a causa di un interesse traboccante. Facciamo un passo indietro per capire com'è, che cos'è Europeana, come funziona. Sergio Nava ha intervistato Luca Martinelli, che è un funzionario della Commissione Europea e tra i responsabili del varo di questo grande progetto. La struttura di Europeana si basa su una collaborazione fra le istituzioni culturali europee. È stata creata una fondazione Biblioteca Digitale Europea, che vede la partecipazione delle istituzioni culturali. La Commissione Europea, tramite il programma eContent Plus, contribuisce al finanziamento di Europeana, chiamiamola la parte centrale di Europeana, per circa l'80%, parliamo di 2 milioni di euro per anno. Il restante 20% viene messo a disposizione da istituzioni culturali e stati membri. Le istituzioni che hanno contribuito contenuto ad Europeana sono attualmente circa 1000 e queste cresceranno gradualmente. Ricordiamo che Europeana si basa su in qualche modo una sorta di federazione di siti web, per cui la parte centrale di Europeana, il servizio Europeana, raccoglie i metadati, cioè le informazioni descrittive, le informazioni di catalogo sull'oggetto culturale, raccoglie inoltre una piccola immagine, un thumbnail, come si dice in inglese, dell'oggetto. Per cui la ricerca viene fatta sulla base di questi metadati, che ovviamente hanno uno standard condiviso, dopodiché cliccando sul thumbnail si raggiunge il sito dell'istituzione culturale dove l'oggetto digitale propriamente detto rimane archiviato, quindi non esiste un database centrale di Europeana, si tratta di una struttura decentrata con un sistema di ricerca armonizzato e multilingue. Ricordiamo che Europeana è disponibile in più di 20 lingue, l'interfaccia di ricerca, però come dico rimane l'oggetto digitale in sé, rimane accessibile tramite i server delle istituzioni culturali. Poniamo la cosa proprio da un punto di vista pratico. Come posso io utente utilizzare al meglio Europeana? Credo che quella che possiamo chiamare esperienza dell'utente tramite Europeana trovi due aspetti veramente di novità e di forza. Uno, il primo è la scoperta di contenuti del proprio paese, quindi parliamo con la prospettiva di un italiano, di un ricercatore italiano o di uno studente italiano, scoperta di contenuti che riguardano il proprio paese, ma presenti in biblioteche, archivi, musei di altri paesi. Questo è possibile anziché recarsi direttamente sul, per esempio alla British Library o ad un museo olandese per vedere i dipinti di Van Gogh. Ecco, questo è immediatamente possibile tramite un semplice click di mouse, tramite una ricerca attraverso Europeana, con una massa critica di contenuto che in Europa appunto non ha precedenti. Parliamo attualmente di circa 2 milioni di oggetti digitali che cresceranno rapidamente e stimiamo arriveranno a 10 milioni di oggetti digitali nel giro di 2 anni. Tra poco 2024 parleremo anche di hard disk, del mercato dei contenuti e della capacità di storage del mondo che cresce sempre di più, quindi un mercato in crescita non forse esponenziale negli ultimi mesi, ma sicuramente una crescita molto interessante. Sapete che nel settore ci sono alcune novità tecnologiche, come ad esempio la tecnologia solid state a stato solido. Parleremo anche di questo tra poco con l'amministratore delegato di Seagate che abbiamo incontrato qualche giorno fa, venuto in Europa, una delle rare visite europee di Bill Watkins, molto simpatico, un americano che da molti anni lavora nel settore. Parleremo anche del progetto One Laptop per Child con uno degli ambasciatori italiani del progetto lanciato da Negroponte al MIT di Boston. Il piccolo computer da meno di $100 è arrivato anche in Italia. Adesso stiamo invece parlando di Europeana, l'enciclopedia online raggiungibile a www.europeana.eu, lanciata dall'Unione Europea. Anche noi avevamo previsto e programmato questa intervista, ma non avevamo fatto i conti con quello che è successo nelle prime ore dal lancio di Europeana. Gli accessi sono stati circa il triplo rispetto alle attese e si è piantato tutto, quindi il tutto è rimandato alla metà di dicembre, ma visto che avevamo programmato l'intervista e anche lo spazio, vi facciamo ascoltare questa chiacchierata che Sergio Nava ha fatto con Luca Martinelli, uno dei funzionari della Commissione Europea, tra i responsabili del varo di Europeana. Dicevamo che ci sono alcuni vantaggi di questo progetto, che è un progetto comunque lanciato da una istituzione pubblica, quindi non un progetto come quelli che nascono su internet basati sul concetto di web 2.0, quindi il tutto creato dagli utenti, come ad esempio Wikipedia, ma ci sono appunto delle novità. Della prima abbiamo parlato, cioè la capacità di scoprire e di trovare cose relative magari ad un paese che si trovano in altri stati europei. Qual è la seconda novità? Il secondo tipo di esperienza dell'utente che in qualche modo rende Europeana unica è la possibilità di riunificare le collezioni. Appunto, pensiamo a Leonardo, una ricerca su Leonardo che dà come risultato la unificazione di tutto quanto è detenuto in termini di, parlando di tipo di contenuto, manoscritti, dipinti, articoli scientifici pubblicati, materiali audiovisivi, e da un punto di vista geografico detenuti in Italia, Francia, Inghilterra e quindi l'insieme dei paesi europei. L'interesse che avete suscitato è tale che Europeana rimarrà ferma fino a metà dicembre, perché avete avuto talmente tante richieste di accesso che praticamente il sito si è reso temporaneamente inaccessibile. Ve l'aspettavate una tale reazione, un tale interesse? Era stato previsto con anche appositi i cosiddetti stress test, una capacità di 5 milioni di hits per ora e siamo arrivati a un picco di 15 milioni di hits per ora, quindi tre volte quelle che erano le previsioni, quindi sicuramente è stato un successo, il successo di questa dimensione è stata una sorpresa e purtroppo in qualche modo Europeana è stata schiacciata dalla improvvisa popolarità. Beh, sicuramente qualcuno ha fatto i conti male, ha fatto le previsioni sbagliate. E quindi il tutto verrà riproposto tra qualche settimana, dovrebbe ripartire Europeana alla metà di dicembre. Quindi ci sarà tempo anche per analizzarla nel dettaglio. Parliamo spesso a 2024 e quando si naviga in internet uno dei temi che viene affrontato con maggiore frequenza è la creazione di contenuti da parte degli utenti che vengono poi caricati su internet e da altri utenti scaricati. Questa è un'esperienza che si fa molto spesso e di cui si sente parlare molto spesso in rete. Abbiamo parlato di questo, ma anche dell'evoluzione del mercato che poi supporta la creazione e l'erogazione di questi contenuti, ovvero lo storage, la capacità di immagazzinamento di questi dati sugli hard disk. Ne abbiamo parlato con Bill Watkins, che è l'amministratore delegato di Seagate. Seagate è uno dei grandi produttori, uno dei pochi per la verità, produttori di hard disk e di soluzioni per lo storage. Partiamo da un esempio che lui ci ha fatto per farci capire come l'ecosistema relativo allo storage e ai contenuti cresce anno dopo anno, vorrei dire minuto dopo minuto. Watkins. If you are listening to an iPod or an MP3 or Zoom or whatever digital music device you have. Se lei sta ascoltando una canzone da un iPod o da qualsiasi altro lettore MP3 lei abbia, per fare in modo che lei possa ascoltare quella canzone deve esserci un'unità di storage da chi fa musica. Chi registra la musica la salva su un hard disk. La mette poi in una grande banca dati come iTunes, che ha i propri sistemi di storage. Lei poi va su iTunes e scarica quella canzone. Insomma, esiste un ecosistema e hard disk ovunque, solo per fare arrivare quella canzone nelle sue mani. Just to deliver that song to your hand. And wherever storage increases in one part of that ecosystem. E nel momento in cui la capacità di storage cresce in una sola parte dell'ecosistema, di conseguenza crescerà ovunque. Storage has to increase in every part. E questo è un po' quello che sta succedendo, sicuramente una buona opportunità per chi produce questi sistemi. Anche recentemente, 2024, abbiamo parlato delle unità di storage, quindi delle unità che contengono hard disk, che stanno diventando sempre più popolari. E sono disponibili in molti negozi anche per le nostre case a prezzi sempre più concorrenziali. Abbiamo parlato con Bill Watkins ancora dello scenario, di quello che sta succedendo guardandolo con l'occhio di chi da tanti anni lavora nel settore. Well, if you thought about the 90s and when we invented the whole sort of. Se pensate agli anni 90, quando inventammo tutte le cose tecnologiche che conosciamo oggi, i computer, i server e lo storage, tutto era relativo alla digitalizzazione dell'ufficio. Abbiamo reso l'ufficio molto più efficiente, abbiamo preso tutti i vostri dati e li abbiamo messi in un computer. Abbiamo insomma tolto di mezzo carta e penna e abbiamo messo tutto nei computer. If you flash forward to today, it's about the home. We're doing the same thing now to your home. Se saltiamo alla situazione di oggi, stiamo facendo la stessa cosa nella vostra casa. Stiamo inondando la gente di contenuti, film, video, musica, giochi. Tutte queste cose arrivano via internet. E un'altra cosa importante è che il 40% delle cose che ci sono su internet è generato dagli utenti. 40% of all the content on the internet is you're generating it yourself. You're taking your pictures. Voi prendete le vostre foto, i vostri video e li mettete su MySpace, su YouTube. Quello che succede è che tutte queste cose arrivano dagli utenti e ancora non c'è un sistema particolarmente efficiente per salvarli, condividerli, sincronizzarli con tutti gli strumenti di cui disponiamo e organizzarli, così come non c'era per gli uffici negli anni 90. Ecco cosa stiamo facendo. Stiamo fornendo una serie di soluzioni per la casa, software e storage, che vi permetteranno di condividere, sincronizzare e organizzare tutti questi contenuti. Pensi, oggi vendiamo più storage per le case di quello per l'ufficio. Questo perché tutto ciò che si crea in casa richiede molto spazio per archiviare video, musica, video in alta definizione. Insomma, c'è bisogno di una grande capacità, mentre nel business parliamo solo di dati. E questa era la voce di Bill Watkins, che è amministratore delegato di Seagate. Chi l'avrebbe mai detto che oggi il business generato dai consumatori finali, dal cosiddetto mercato consumer, è più elevato, più forte rispetto a quello generato dalle aziende? Ne continueremo a parlare tra poco. Tra poco parliamo anche di One Laptop per Child, il progetto lanciato da Negroponte per fornire ai bambini dei paesi in via di sviluppo computer a meno di $100. Questo è 2024, il nostro indirizzo di posta elettronica è 2024 e radio24.it. Ancora bentornati a 2024, andiamo in onda il sabato nel pomeriggio di Radio 24 tra le 15.30 e le 16.30, oppure ci trovate anche online su www.radio24.it. Tutte le informazioni le trovate nelle pagine di 2024 per sottoscrivere il podcast e quindi abbonarvi gratuitamente, potete downloadare, scaricare il file MP3 della nostra trasmissione settimana dopo settimana. Io sono Enrico Pagliarini, il nostro indirizzo di posta elettronica è 2024, quindi 2024 e radio24.it. Prima di parlare di One Laptop per Child, del programma di Negroponte per lanciare un piccolo computer a meno di $100, terminiamo questa chiacchierata molto interessante, molto divertente con Bill Watkins, amministratore delegato di Seagate, che ci ha parlato dello scenario, di quello che sta succedendo nelle nostre case soprattutto. E a proposito di case, fate i conti e provate a vedere quant'è la capacità di storage della vostra casa. Facile, difficile? Beh, sentite che cosa ci ha detto Bill Watkins. I have 6 terabytes in my home. I have a home array that have all my DVDs and all my music. Nella mia casa ho 6 terabyte. Ho tutti i miei DVD, la mia musica, le fotografie, insomma 6 tera. 5 anni fa dicevo alla gente: "Tu hai 100 gigabyte a casa tua." You have 100 gigabytes in your home. And they would say, "No, I don't have that." And I would say, "Just start counting your iPods and everything." E loro mi rispondevano: "No, non ce li ho." E io dicevo: "Conta solo i tuoi iPod e vedrai che hai addirittura 1 terabyte. Forse non ve ne sarete resi conto, ma voi avete 1 tera in casa se considerate il vostro computer portatile, il vostro videoregistratore digitale, la console per i videogiochi. Insomma, se cominciate a contare tutte queste cose, vedrete che avete 1 terabyte già oggi." Oh, attenzione, tutto ciò va tradotto perché Bill Watkins parla con la mente rivolta alle case degli Stati Uniti, dove la tecnologia è molto più diffusa rispetto all'Italia. Quindi sicuramente ci sono molti più lettori di file MP3, molti più videoregistratori digitali, molte più console di videogioco e naturalmente molti più computer. Quindi il tutto va tradotto per l'Italia, dove i numeri e la disponibilità di questi strumenti, ai noi, sono inferiori. Però, tanto per capire qual è l'evoluzione anche dello storage nelle nostre case, questa descrizione è sicuramente molto chiara. E adesso concludiamo questa chiacchierata che abbiamo fatto con Bill Watkins, che è l'amministratore delegato di Seagate, parlando della tecnologia allo stato solido. Solid state, dicono gli americani. La differenza tra questa tecnologia e gli hard disk è molto semplice, se naturalmente si sta ad un livello superficiale. Quando parliamo di hard disk, dei dischi rigidi, tutti sanno o possono almeno immaginare che ci siano parti in movimento. Il disco gira, il disco dove sono contenuti i dati gira, la testina che legge o le testine che leggono le informazioni si muovono, e dove c'è qualche cosa che si muove, qualche cosa si può rompere. È molto meno difficile che si rompa dove pochi sono gli elementi che si muovono. Poi c'è anche un altro problema, lo verificherete anche sui vostri computer: non sempre gli hard disk sono veloci nell'andare a trovare le informazioni che noi richiediamo, quando ad esempio apriamo un file, oppure se il file è molto lungo o pesante. Nella tecnologia allo stato solido nulla si muove, perché non esiste un vero e proprio hard disk, quindi molti dicono che siano più sicure, soprattutto negli strumenti che si muovono spesso, come i computer portatili, i telefonini, i lettori MP3. C'è poi un altro vantaggio, che è la velocità. C'è uno svantaggio, che è il costo. Oggi questa tecnologia costa molto, e quindi l'utilizzo è limitato alle schedine che inseriamo nelle fotocamere digitali, ai telefonini, ai lettori MP3. Ci sono già alcuni computer portatili che hanno però un'opzione: uno può scegliere di acquistarli con una soluzione allo stato solido, quindi molto più moderna, molto più efficiente, alcuni dicono più sicura e molto più veloce, ma, come dicevo, molto più costosa. Qual è il parere di uno dei più grandi produttori di hard disk e del suo amministratore delegato, Bill Watkins? Right now we think the best application of solid state storage is in the enterprise. In questo momento pensiamo che la migliore applicazione della tecnologia allo stato solido sia nel mercato aziendale. Pensiamo che nei prossimi 5 anni dal 5 al 10% del mercato aziendale sarà coperto dalla tecnologia allo stato solido. The problem we have with solid state in the notebook, for example, is that it's fairly expensive. Il problema che abbiamo con lo stato solido nei notebook, ad esempio, è che è piuttosto costoso. Una capacità di 60 giga per un notebook oggi costa probabilmente tra i 6 e i $700, circa $11 per giga. Per $60 invece è possibile acquistare un hard disk da 250 giga. If you go forward to 2012, the choice in 2012 will be a 60 gigabyte drive. Se ci proiettiamo nel 2012, potremmo avere una capacità da 60 giga per $60, ma io potrò venderle un disco da un minimo di 500 giga per soli $60. E non c'è nemmeno differenza nella garanzia, perché l'unico settore dove trovo una garanzia di 5 anni è quello degli hard disk. Today we think anything under 30 gigabytes makes sense to be solid state. Per la tecnologia allo stato solido, pensiamo ci possano essere applicazioni che stanno nel palmo della mano, in un telefono, in un lettore MP3. Insomma, pensiamo che oggi per tutto quello che sta sotto ai 30 giga abbia senso la tecnologia allo stato solido, ma per tutto quello che sta sopra sia meglio un hard disk. Nel 2012 questo limite sarà 40 o 50 giga. 2012 that number may be 40 or 50 gigabytes. Bene, quindi indicazioni utili anche per chi si avvicina all'acquisto di un computer portatile, magari è tentato di fare questa scelta, oggi ancora molto costosa ma sicuramente molto efficiente, soprattutto dal punto di vista della velocità dell'accesso ai dati. Adesso parliamo di un piccolo computer, un progetto lanciato da Negroponte, dal MIT di Boston, per creare un notebook, un computer portatile, un laptop per ogni bambino dei paesi in via di sviluppo a meno di $100. Il progetto si chiama One Laptop per Child, progetto che è soprattutto computer che è arrivato anche in Europa e naturalmente anche in Italia. Uno degli ambasciatori è Fiorello Cortiana. Fiorello Cortiana è un politico che da tempo si occupa della rete, di internet, di tutto quello che sta succedendo. È molto importante che anche gli uomini politici si occupino di questo grande e importante tema, purtroppo sono pochi, e oltre a questo, appunto dicevo, è ambasciatore italiano per il progetto One Laptop per Child. Benvenuto a 2024. Grazie e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Questo è un progetto che era nato solo per i paesi in via di sviluppo, per quale motivo arriva anche nel nostro paese? Perché dopo l'iniziale progetto, che era ne compri due e ne prendi uno perché l'altro andrà in un paese in via di sviluppo, oggi il progetto si sta definendo come progetto anche distributivo, sempre restando coerente con politiche educative. Questo è un progetto educativo, anche se questo laptop è uno strumento assolutamente qualificato, molto carico di tecnologia, basato su un codice sorgente aperto e quindi dove migliaia di persone possono concorrere, adattare e modificare. Ha dentro una videocamera, si alimenta a pannelli solari o a manovella, o per noi qua in Europa chiaramente con la spina attaccata alla rete elettrica. Oggi questo è un progetto che è legato anche alla cooperazione internazionale direttamente, quindi uno può anche comprarne 100 per darne 100 a un progetto di cooperazione internazionale, non deve comprarne 200 perché 100 vanno là, può contribuire direttamente. Prima di iniziare l'intervista tu hai detto: guarda che questo è un computer particolare, fuori dai classici concetti. Diciamo due cose, anche se alla radio insomma non si vedono le cose, quindi difficilmente le possiamo descrivere, ma diciamo due caratteristiche di questo piccolo computer. Ma dal punto di vista della sua funzionalità, anche della struttura, è simile a tanti laptop, con lo schermo che si può girare e chiudere tipo libro, proprio per leggere i libri, perché dicevo è legato a un progetto educativo. Però la cosa interessante è dal punto di vista, diciamo, dell'interfaccia. Noi siamo abituati a cercare, se in sistemi proprietari o in sistemi aperti, però delle modalità dove abbiamo il nostro menu in alto con i vari, no, con le varie voci, cercare lì. Qui c'è questa figura XO, Walla Topper Child XO. XO è il nome di questo computer, esatto, del progetto. E c'è questa X con una testa sopra, che è proprio la foto di una persona, di un bambino, no? Se uno mette una X e ci mette un pallino sopra tondo, a far da testa, sembra un bambino con braccia e gambe aperte. A rosa, tutto intorno, a cerchio, si dispongono tanti simboli. Ognuno di questi simboli è legato a diversi tipi di applicazioni, tipo la geografia con tutta la mappatura del mondo eccetera che uno va poi a vedersi, è letteralmente il simbolo di un mappamondo della Terra. La connessione è il simbolo della Terra, ma non geografico, ma con latitudini e longitudini, quindi quasi una con la rete. Esatto, con la rete letteralmente. Per scrivere c'è letteralmente un foglio con una penna, con una matita. Sì, non c'è la W, esatto, di Word. Uno non trova. E così anche per salvare uno ha una porta aperta, quando dopo che ha scritto, dove salva e memorizza. È diverso. È stato sviluppato in una relazione diretta con i bambini innanzitutto. È evidente che il progetto non riguarda, dal punto di vista del piano educativo, riguarda i bambini. Però in realtà riguarda anche il mondo adulto, perché si presuppone che ogni bambino abbia dei genitori a casa, dei fratelli maggiori, e quindi il bambino è a sua volta un veicolo di riduzione dell'analfabetismo digitale. Stiamo parlando del progetto e poi anche nel concreto del risultato di questo progetto, del One Laptop per Child, un computer portatile per ogni bambino. Un progetto, come dicevamo, nato per i paesi in via di sviluppo. È con noi uno degli ambasciatori italiani di questo progetto, Fiorello Cortiana. Dunque, questo computer si trova nei negozi oppure i canali distributivi sono altri? Al momento è la seconda cosa che hai detto, legati a progetti, e quindi si fanno acquisti per migliaia di computer in chiave collettiva, concorrono diverse realtà pubbliche. Ad esempio la provincia di Milano presenterà prossimamente, insieme a Don Rigoldi di Comunità Nuova, sta appoggiando un progetto di Don Rigoldi per intervenire in Romania, a Gerusalemme, in Kenya, oltre che a Milano. Proprio progetto educativo, quindi ha dato un contributo e Don Rigoldi si è inserito dentro un ordinativo che comprende anche il comune di Firenze e la provincia di Brescia, per fare un esempio. Al momento è così. Quindi diciamo il nostro paese o gli altri paesi europei attiveranno dei progetti che avranno come obiettivo un intervento in paesi in via di sviluppo o comunque in paesi dove ci sono dei forti cultural divide, quindi bambini che hanno difficoltà ad accedere alle tecnologie, ma mi sembra di capire che questi progetti ci saranno anche in Italia, perché la situazione non è così omogenea. Sì, questo come, è in come qualche modo il contributo che ho portato io, di andare incontro a chi vive il disagio del divario digitale, sia come accesso e anche culturale, e quindi rischia in un tempo abbastanza ristretto di restare tagliato fuori dai processi di produzione di valore e di lavoro economici, che già oggi sono quelli della società e dell'economia della conoscenza. Tutto questo lo troviamo anche qui troviamo bambini che hanno questo disagio, e non è detto, anche se coincide evidentemente in gran parte, che coincida esattamente col disagio sociale familiare. Ci può essere anche una famiglia non di disagio sociale, ma che vive una grande ignoranza da questo punto di vista. Il figlio, che nell'immediato non sente questo disagio sociale, quando crescerà rischierà di essere abbastanza tagliato fuori se non riduce questo divario. Va detto che è dotato di antennine per il collegamento wireless e wifi di tipo satellitare a ogni nodo che trova libero e disponibile. Qui non ne ho trovati a Radio 24, però. Beh, qua per motivi di sicurezza mi dicono che non abbiamo wifi disponibile, ma abbiamo internet ampiamente disponibile a banda larga. A proposito del progetto in generale, l'Italia e l'Europa, diciamo, è allineata un po' con il resto del mondo? Arriviamo dopo oppure no? Diciamo che tutto è partito appunto dall'MIT di Boston, è ONLUS, è un ONG, il Wallato Perciai, è un progetto non governativo. Adesso loro hanno aperto di coloro, io per rispetto, anche se ho accettato di essere un goodwill ambassador, un ambasciatore di buona volontà, peraltro in buona compagnia con persone come Rita Levi Montalcini, piuttosto che ho convinto anche il sindaco di Milano Letizia Moratti a divenirlo recentemente, hanno deciso di formalizzare, di strutturare meglio la propria presenza anche nei continenti. In Europa si è aperto un ufficio a Bruxelles, nei 40 che formano il board di questo progetto dell'MIT di Boston c'è anche un'italiana, una ragazza giovane, Giulia D'Amico di Firenze, molto brava, che a Bruxelles ha messo in piedi questo ufficio, che ha anche altri Walter De Brouwer, altre personalità molto importanti. Dicevo all'inizio, quando ti ho presentato, che tu da tempo ti occupi non solo per passione, ma anche per la tua esperienza politica, di internet e di tutto quello che succede su internet e dei problemi che si sono creati con la diffusione della rete. Spesso quando c'è l'intervento dell'uomo, e internet è un forte intervento dell'uomo, si creano anche dei problemi che vanno tenuti sotto controllo. In alcuni casi insomma siamo anche capaci di risolverli, ma in altri casi insomma questo è molto difficile. Tu da alcuni anni, da 4 anni, partecipi ad un percorso che le Nazioni Unite hanno lanciato per trovare una formula di governo della rete. Allora, partiamo proprio da qua. Qual è il concetto che è stato lanciato per fare che cosa? Diciamo che le Nazioni Unite hanno promosso nel 2004 e 2005 due sessioni di un summit mondiale con delegazioni dai vari paesi, delegazioni di natura governativa e parlamentare, secondo delle sensibilità dei governi ad estendere al Parlamento. Nel nostro caso, su mia proposta, l'allora ministro Lucio Stanca accettò che la delegazione italiana fosse governativa e parlamentare, e accettò che costruissimo la nostra posizione attraverso un processo con tutti gli stakeholder, tutti i portatori di interesse, anche legati all'impresa, legati alla società civile, oltre che alla pubblica amministrazione. La risoluzione che fu approvata la prima sessione a Ginevra e poi quella finale dell'agenda di Tunisi già riconosceva la particolarità della rete di internet, che non era semplicemente un nuovo supporto per la comunicazione che succedeva al telegrafo, al telefono, alla radio, alla televisione, al singolo computer, ma si presentava come un sistema e come un'estensione del sistema di relazione sociale e quindi anche di produzione di conoscenza. E questo è stato molto importante. La fine di del World Summit ha intelligentemente avviato un processo che ha aperto anche agli altri stakeholder, quindi alle organizzazioni non governative e anche al mondo delle imprese. Questo si chiama Internet Governance Forum, IGF. Il primo si è tenuto a Atene, durerà 5 anni, una volta all'anno, il secondo a Rio, il terzo sarà il mese prossimo a Hyderabad in India e l'anno prossimo sarà al Cairo in Egitto. La cosa interessante è che, a differenza del World Summit, dove si è arrivati a una risoluzione finale con grandissima fatica e con un ruolo molto importante dell'Europa e anche dell'Italia di mediazione, perché molti degli stati avevano l'esigenza, specialmente stati autoritari, potrebbero essere la Cina, l'Iran piuttosto che Cuba, di un controllo della rete, mentre la rete nasce senza conoscere confini e dando potenzialmente a ogni utente, navigante, pari opportunità di accesso e di comunicazione come tutti gli altri. Allora l'Internet Governance Forum, dopo quella mediazione difficile, si è prefisso non tanto di votare, non vota nulla, è aperto alla partecipazione, come ho detto, di tutti, può costruire dei processi che prendono atto di una serie di punti condivisi e poi nei vari livelli istituzionali, nelle varie legislazioni, negli accordi internazionali, questi possono trovare una definizione, una forma. Noi lanciammo, dico noi perché partimmo io e Rodotà insieme a Lawrence Lessig della Stanford University, dei Creative Commons, a Richard Stallman, che ha inventato... Sì, perché chi conosce la rete, insomma, questi sono nomi abbastanza noti. Sì, Gilberto Gil, che è musicista, ma era anche ministro della cultura brasiliano, lanciammo in vista di Tunisi un appello che si chiamò Tunisi Mon Amour, giocando su Hiroshima Mon Amour, per una carta dei diritti e dei doveri della rete, cioè per una Internet Bill of Rights, una costituzione della rete. Tutto questo in qualche modo ha iniziato un processo, già ad Atene con un workshop particolare, già a Rio, dove Italia e Brasile è il paese ospitante, hanno firmato anche una dichiarazione congiunta che invitava tutti, imprese e società civile, governi, a avviare questo processo. A Hyderabad si farà un passo avanti, è stata costituita, come prevede l'IGF, una dynamic coalition, una coalizione dinamica che appunto raccoglie società civile, governi, parlamenti e mondo delle imprese, che proprio è dedicata all'Internet Bill of Rights. Noi ci auguriamo che già al Cairo questo tema di una definizione dei diritti della rete e dei doveri della rete si affianchi agli altri 4 temi importanti, che sono security, access, openness, quindi accesso, esatto, proprio l'accesso alla rete sul concetto di digital divide. Openness vuol dire l'accesso alla conoscenza, alla libertà di parola, di pensiero, con tutti i problemi che ci sono, diritto d'autore, copyright, eccetera, da affrontare, e multiculturality, perché la rete consente in teoria a tutti i tipi di culture di potersi esprimere, a tutti i linguaggi, di poter restare vivi e non di essere sostituiti. Questi sono temi sicuramente complessi ma estremamente importanti anche per il futuro delle democrazie, che dialogheranno molto spesso e anzi sempre di più sulla rete. Grazie Fiorello Cortiana per essere stato con noi, anche per il lavoro che fa. Avremo modo, insomma, anche di parlare presto della situazione italiana, perché ci sono proposte di legge presentate poi ritirate, e quindi il dibattito è ampio anche in rete. A presto, buon lavoro. Grazie a voi. E noi concludiamo questa puntata di 2024. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica 2024@radio24.it. Questa puntata sarà disponibile online sul nostro sito internet www.radio24.it. Grazie a Luigi Borghi in redazione. Io sono Enrico Pagliarini, vi ringrazio per l'attenzione. Ci risentiamo tra 7 giorni, sempre al sabato pomeriggio su Radio 24. You are disconnected.